Abbiamo deciso di scendere in presidio perché l'assemblea per il clima latita, sebbene siamo stati molto vicini al processo, da quando poi abbiamo consegnato la bozza di regolamento da luglio in poi, abbiamo ricevuto sempre meno notizie dall'amministrazione e soprattutto alcuni dei nostri dubbi che riguardano nello specifico la governance del processo. C'era da stabilire il comitato di coordinamento, non sappiamo ancora ad oggi chi sono i membri di questo comitato di coordinamento e soprattutto il dubbio è quello di quale ruolo avrà poi l'assemblea cittadina all'interno della mission sulla carbon neutrality, cioè se avrà un ruolo da protagonista, nel senso che le cittadine e i cittadini tracceranno effettivamente quello che poi c'è scritto nello statuto e le promesse che ci avevano fatto, ovvero un report di proposte da sottomettere al consiglio comunale, oppure se saranno dei meri passacarte di decisioni già stabilite altrove. Chiaramente l'ultimo dubbio grosso è sulla convocazione, cioè quando, perché a dicembre c'è stata la delibera di consiglio che ha indetto, ha dato il via al sorteggio. Il sorteggio pare, dalle notizie che ci arrivano, abbia avuto delle lungaggini, quindi l'assemblea è stata spostata, ripeto, noi c'era stato detto l'anno scorso ottobre, poi dicembre e poi dopo gennaio, e ancora non abbiamo una data. Anche su questo non abbiamo ricevuto una risposta. Per questo motivo, sebbene in questi 3 anni abbiamo cooperato, però scendiamo in piazza perché per noi le assemblee cittadine sono il primo passo per tracciare effettivamente una strada per arrivare allo zero netto, e se per convocare un'assemblea che deve discutere sulle soluzioni da adottare per arrivare allo zero netto del 2030 ci mettiamo 3 anni, immaginiamo quanto urgente davvero si percepisce negli uffici comunali e quali sono davvero le priorità della politica locale per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Le assemblee per il clima esprimeranno un parere vincolante per l'amministrazione? Assolutamente. Quello che è stato pensato con la governance è quello di far dialogare l'assemblea cittadina con il consiglio comunale, che ha quindi la possibilità di ratificare direttamente le proposte, di emendarle o di cassarle totalmente. Quelle proposte diventano vincolanti nella misura in cui un atto comunale è vincolante per l'amministrazione, ma l'assemblea cittadina ha anche un altro ruolo, quello di far uscire chiaramente gli interessi in gioco su una data tematica, e questo è molto importante perché stimolerebbe dibattito pubblico in città dal momento in cui si parla di cambiamenti climatici ma si ha difficoltà a atterrarli nella realtà quotidiana, anche dal punto di vista delle progettualità in essere sul comune di Bologna. Mi pare di capire che una delle vostre preoccupazioni riguardi la partecipazione, se viene intesa in modo reale o solo formale. Assolutamente sì, noi ci siamo imbarcati in questo sforzo perché, credimi e credeteci, noi non siamo amministratori, però soprattutto le persone che sono state molto vicino alla negoziazione hanno preso la cosa seriamente. Quindi siamo diventati quasi degli esperti di diritto amministrativo. L'abbiamo fatto perché crediamo davvero che la partecipazione rafforzata possa portare a delle soluzioni il più digeribili possibili per tutta la cittadinanza. Però se questo dall'altro lato negli interlocutori non viene percepito come davvero una volontà nata dal basso di innovare la democrazia, ma un altro percorso partecipato come tanti in città, purtroppo siamo fuori fuoco e quindi dovremmo continuare le nostre azioni e alzare il livello. Se non dovessero arrivare risposte in questa settimana, saremo in presidio anche la prossima, e nel caso in cui non dovessero arrivare delle risposte che noi pubblicheremo, si continuerà in presidio anche con una frequenza maggiore.